Ad alta voce, Gabriele Vacis legge Le tigri di Mompracem, di Emilio Salgari. «Sì, sì, Alabuan!» gridarono i pirati agitando freneticamente le armi. Yanez parve che non lo avesse udito. Era salito su un vecchio affusto d'un cannone e guardava attentamente verso un promontorio che si prolungava assai sul mare. «Cosa cerchi, fratellino?» chiese Sandokan. «Vedo l'estremità d'un albero spuntare dietro quelle scogliere», rispose il portoghese. «Uno dei nostri praos. Quale altro legno oserebbe avvicinarsi alle nostre coste? Non sono tutti rientrati i nostri velieri. Tutti meno uno, quello di Pisangu, uno dei più grossi e dei meglio armati. Dove l'avevi mandato? Verso Labuan, onde ti cercasse. Sì, è il praho di Pisangu», confermò un capobanda. «Vedo però un solo albero, signor Yanez». «Che si è abituato a dare il prialurdo il trinchetto?» si chiese Sandokan. «Attendiamolo, chissà. Può recarci qualche notizia dall'Abuan». Tutti i pirati erano saliti sui bastioni per meglio osservare quel veliero che s'avanzava lentamente seguendo il promontorio. Quando ebbe girata la punta estrema, un grido solo sfuggì da tutti i petti. «Il praho di Pisangu!» Era veramente il veliero che Yanez 3 giorni prima aveva mandato verso Labuan onde cercasse di avere notizia della tigre della Malesia e dei suoi prodi, ma in quale stato ritornava? Dell'albero di trinchetto non rimaneva che un troncone. Quello maestro si reggeva a malapena sostenuto da una fitta rete di sarti e di paterazzi. Le murate non esistevano quasi più e anche i fianchi si vedevano gravemente danneggiati e irti di tappi di legno per chiudere i fori aperti dalle palle. «Quel legno deve essersi ben battuto», disse Sandokan. «Pisangu è un valoroso che non teme di assalire anche le grosse navi», rispose Yanez. «To, mi pare che conduca qualche prigioniero. Non scorgi una giacca rossa fra i nostri bravi tigrotti?» «Sì, mi pare di vedere un soldato inglese del cavallo maestro», disse Yanez. «Che l'abbia preso a Labuan? Non l'avrà certamente pescato in mare. Ah, se potesse darmi notizie di Marianna!» «È vero, fratellino mio?» «Sì», rispose Sandokan con voce sorda. «Lo interrogheremo». Il prao, aiutato dai remi, essendo il vento piuttosto debole, si avanzava rapidamente. Il suo capitano, un bornese di alta statura, di forme splendide che lo faceva rassomigliare ad una superba statua di bronzo antico anche in causa della tinta olivastra, scorgendo Yanez e Sandokan mandò un grido di gioia, poi alzando le mani urlò «Buona preda!». 5 minuti dopo il veliero entrava nella piccola baia gettando l'ancora a 20 passi dalla sponda. Una scialuppa fu subito messa in mare e Pisangu vi prese posto assieme al soldato e a 4 rematori. «Da dove vieni?» gli chiese Sandokan appena fu sbarcato. «Dalle coste orientali di Labuan, mio capitano», disse il bornese. «Mi ero spinto colà con la speranza di avere vostre notizie e son felice di ritrovarvi qui e sano ancora». «Chi è quell'inglese?» «Un caporale, capitano». «Dove l'hai fatto prigioniero?» «Presso Labuan». «Narravo una cosa. Stavo attraversando le spiagge quando vidi un canotto montato da quell'uomo sbucare dalla foce d'un piccolo fiumicello. Il briccone doveva avere dei compagni sulle 2 rive, poiché lo udivo di frequente mandare dei fischi acutissimi. Feci subito mettere in mare la scialuppa e con 10 uomini gli diedi la caccia, sperando che mi desse vostre notizie. La cattura non fu difficile, ma quando volli abbandonare la foce del fiumicello m'accorsi che la via era stata chiusa da una cannoniera. Impegnai risolutamente la lotta, scambiando palle e mitraglia in abbondanza. Una vera tempesta, mio capitano, che mi distrusse mezzo equipaggio e mi rovinò il legno, ma che ridusse a mal partito anche la cannoniera. Quando vidi che il nemico si ritirava, con 2 bordate presi il largo, tornandomene qui più che in fretta». «E quel soldato viene proprio da Labuan?» «Sì, mio capitano». «Grazie, Pisangu. Conduci qui il soldato». Quel disgraziato era stato di già spinto sulla spiaggia e circondato dai pirati, i quali avevano già cominciato a maltrattarlo e a strappargli di dosso i galloni di caporale. Era un giovanotto di 25 o 28 anni, grasso, di statura piuttosto bassa, biondo, roseo, paffuto. Pareva assai spaventato di trovarsi in mezzo a quelle bande di pirati, però nessuna parola gli usciva dalle labbra. Vedendo Sandokan, si sforzò di sbozzare un sorriso, poi gli disse con un tremito nella voce: «La tigre della Malesia». «Mi conosci?» gli chiese Sandokan. «Sì». «Dove mi hai veduto?» «Nella villa di Lord Geelong». «Sarai stupito di vedermi qui». «È vero, vi credevo ancora a Labuan e già nelle mani dei miei camerati». «C'eri anche tu fra quelli che mi davano la caccia?» Il soldato non rispose. Poi, crollando il capo, disse: «È finita per me, non è vero, signor pirata?» «La tua vita dipende dalle tue risposte», rispose Sandokan. «Chi può fidarsi della parola d'un uomo che assassina la gente come se bevesse un bicchierino di gin o di brandy?» Un lampo di collera brillò negli occhi della tigre della Malesia. «Tu mentisci, cane!» «Come volete», rispose il caporale. «E parlerai?» «Bada, ho dei cris che tagliano un corpo in mille pezzi, ho delle tenaglie roventi per strappare la carne brano a brano, ho del piombo liquefatto da versarsi sulle ferite o da far inghiottire ai recalcitranti. Tu parlerai o ti farò soffrire tanto da invocare la morte come la liberazione?» L'inglese impallidì, ma invece di aprire le labbra se le chiuse tra i denti, come se temesse che qualche parola gli sfuggisse. «Orsù, dove ti trovavi quando io ho lasciato la villa del Lord?» «Nei boschi», rispose il soldato. «Cosa facevi?» «Nulla». «Tu vuoi burlarti di me? Labuan ha troppo pochi soldati per mandarti a passeggiare nei boschi senza alcun motivo», disse Sandokan. «Ma parla, voglio sapere tutto». «Io non so nulla». «Ah, no, no, la vedremo». Sandokan aveva estratto il kris e con un rapido gesto l'aveva puntato alla gola del soldato, facendo uscire una goccia di sangue. Il prigioniero non seppe frenare un grido di dolore. «Parla, o ti uccido», disse freddamente Sandokan, senza staccare il pugnale la cui punta cominciava a rosseggiare. Il caporale ebbe ancora una breve esitazione, ma vedendo negli occhi della tigre della Malesia un lampo terribile cedette. «Basta», disse. «Parlerò». Sandokan fece segno ai suoi uomini di allontanarsi, poi si sedette assieme a Yanez su un affusto di cannone, dicendo al soldato: «Ti ascolto, cosa facevi nei boschi?» «Seguivo il baronetto Rosenthal». «Ah!» esclamò Sandokan, mentre un cupo lampo gli brillava negli sguardi. «Lui!» Lord Geelong aveva saputo che l'uomo raccolto moribondo e che aveva curato nella propria casa non era un principe malese, ma invece la terribile tigre della Malesia, e d'accordo col baronetto e col governatore di Vittoria aveva preparato l'agguato. «E come l'aveva saputo?» «Lo ignoro». «Continua?» «Furono raccolti 100 uomini e ci mandarono a circondare la villa per impedire a voi la fuga». «Questo lo so. Dimmi cos'è avvenuto dopo, quando io riuscii a forzare le linee e mi rifugiai nei boschi». «Quando il baronetto entrò nella villa, trovò Lord Geelong in preda ad una tremenda eccitazione. Aveva una ferita alla gamba, fattagli da voi». «Da me?» esclamò Sandokan. «Forse inavvertitamente». «Lo credo, perché se avessi voluto ucciderlo, nessuno avrebbe potuto impedirlo. E Lady Marianna?» «Piangeva. Sembrava che fra la bella fanciulla e suo zio fosse avvenuta una scena violentissima. Il Lord l'accusava di avere favorita la vostra fuga ed ella invocava pietà per voi». «Povera fanciulla!» esclamò Sandokan, mentre una rapida commozione alterava i suoi lineamenti. «Lodi, Yanez». «Continua», disse il portoghese al soldato. «Bada però di dire il vero, poiché tu rimarrai qui fino al nostro ritorno dall'Abuan. Se avrai mentito, non sfuggirai alla morte». «È inutile che io vi inganni», rispose il caporale. Riuscito infruttuoso l'inseguimento, noi restammo accampati presso la villa per proteggerla contro il possibile assalto dei pirati di Monpracem. Correvano delle voci poco rassicuranti. Si diceva che dei tigrotti erano sbarcati e che la tigre della Malesia stava nascosta nei boschi sulla villa e da rapire la fanciulla. Cosa sia poi avvenuto io lo ignoro. Devo però dirvi che Lord Gillon, che aveva preso gli accordi opportuni per ritirarsi a Vittoria sotto la protezione degli incrociatori e dei forti. Ed il baronetto Rosenthal sposerà fra breve Lady Marianna. Hai detto, gridò Sandokan scattando in piedi, che egli vi prenderà la fanciulla. Vuoi ingannarmi? A quale scopo? Vi dico che fra un mese quel matrimonio si farà. Ma Lady Marianna detesta quell'uomo. Cosa importa a Lord Gillong? Sandokan mandò un urlo di belva ferita e barcollò chiudendo gli occhi. Uno spasimo tremendo aveva scomposto il suo volto. S'avvicinò al soldato e scuotendolo furiosamente gli disse con voce sibilante: «Tu non mi hai ingannato, è vero? Vi giuro che ho detto la verità. Tu rimarrai qui e noi andremo a Labuan. Se non avrai mentito ti darò tanto oro quanto pesi». Poi volgendosi verso Yanez gli disse con voce decisa: «Partiamo». «Sono pronto a seguirti», rispose semplicemente il portoghese. «Tutto è pronto? Non manca che di scegliere gli uomini che dovranno seguirci. Condurremo con noi i più valorosi, poiché si tratta di giocare una partita suprema. Lascia però qui forze sufficienti per difendere il nostro rifugio. Cosa temi, Yanez? Gli inglesi potrebbero approfittare della nostra assenza per gettarsi sulla nostra isola. Non oseranno tanto, Yanez. Credo il contrario». Ormai a Labuan sono abbastanza forti per tentare la lotta, Sandokan. Un giorno o l'altro l'urto decisivo dovrà avvenire. Ci troveranno pronti e vedremo se saranno più decise e valorose le tigri di Labuan. Sandokan fece schierare le sue bande che contavano più di 240 uomini, reclutati fra le più guerriere tribù del Borneo e delle isole del Mar Malese, e scelse 90 tigrotti i più valorosi. E di più robusti, vere anime dannate che ad un suo cenno non avrebbero esitato a scagliarsi anche contro i forti di Vittoria, la cittadella di Labuan. Chiamò poi Giro Batol e mostrandolo alle bande che rimanevano alla difesa dell'isola disse: «Ecco un uomo che ha la fortuna di essere uno dei più valenti della pirateria, l'unico che sopravvisse dei miei equipaggi nella disgraziata spedizione di Labuan. Durante la mia assenza obbedite a lui come se fosse la mia persona. Ed ora imbarchiamoci, Yanez». Capitolo 16. La spedizione contro Labuan. Novanta uomini si imbarcarono sui praos. Yanez e Sandokan presero posto sul più grande e più solido, che portava doppi cannoni e una mezza dozzina di grosse spingarde e che per di più era difeso da grosse lamine di ferro. Le ancore vennero salpate, le vele orientate e la spedizione uscì dalla baia fra le acclamazioni delle bande affollate sulla riva e sui bastioni. Il cielo era sereno ed il mare liscio come fosse d'olio. Però verso il sud apparivano alcune nuvolette di una tinta particolare, di una forma strana e che nulla presagivano di buono. Sandokan, che oltre ad essere un cannocchiale eccellente era anche un buon barometro, fiutò un prossimo perturbamento atmosferico, tuttavia non si inquietò. Se gli uomini non sono capaci di arrestarmi, tantomeno lo farà la tempesta. Mi sento tanto forte da sfidare anche i furori della natura, disse. Temi un violento uragano? Chiese Yanez. Sì, ma non mi farà tornare indietro, anzi, mi sarà favorevole, fratello mio, poiché potremo sbarcare senza essere inquietati dagli incrociatori. E appena a terra cosa farai? Non lo so ancora, ma mi sento capace di tutto, di affrontare anche l'intera squadra inglese se cercasse di sbarrarmi la via, come di lanciare i miei uomini contro la villa per espugnarla. Se tu annunci il tuo sbarco con qualche battaglia, il Lord non rimarrà più fra i boschi, ma fuggirà già sotto la protezione del forte e dei navigli. È vero. Yanez, rispose Sandokan sospirando, e tuttavia bisogna che Marianna sia mia sposa, poiché sento che senza di lei mai si spegnerebbe il fuoco che mi divora il cuore. Ragione di più per agire con la massima prudenza, onde sorprendere il Lord. Sorprenderlo. E credi tu che il Lord non stia in guardia? Egli sa che io sono capace di tutto e avrà radunato nel suo parco dei soldati e dei marinai. Può essere. Ma ricorreremo a qualche astuzia. Chissà, qualche cosa mi frulla già pel capo e potrebbe maturare, ma dimmi, amico mio, si lascerà rapire Marianna? Oh, sì, me lo ha giurato. E la condurrai a Montprachem? Sì. E dopo averla sposata, ve la terrai per sempre? Non lo so, Yanez, disse Sandokan emettendo un profondo sospiro. Vuoi tu che la releghi nella mia selvaggia isola per sempre? Vuoi tu che ella viva per sempre fra i miei tigrotti, che non sanno altro che trarre archibugiate, menare il cris e la scure? Vuoi tu che io mostri ai suoi dolci occhi spettacoli orrendi, sangue e stragi per ogni dove, che l'assordi con le urla dei combattenti e il ruggito dei cannoni e che la esponga a un continuo pericolo? Dimmi, Yanez, nel mio caso faresti tu ciò? Ma pensa, Sandokan, a ciò che diverrà Montprachem senza la sua tigre della Malesia. Con te tornerebbe a brillare, tanto da eclissare Labuan e tutte le altre isole, e farebbe ancora fremere i figli di quegli uomini che distrussero la tua famiglia e il tuo popolo. Vi sono migliaia di Dayaki e di Malesi che altro non aspettano che un appello per accorrere a ingrossare la banda delle tigri di Montprachem. Ho pensato a tutto ciò, Yanez. E cosa ti ha detto il cuore? L'ho sentito sanguinare. E non di meno lasceresti perire la tua potenza per quella donna? L'amo, Yanez. Ah, non vorrei essere stato mai la tigre della Malesia. Il pirata, che cosa insolita, era estremamente commosso, si sedette sull'affusto di un cannone prendendosi il capo fra le mani come se volesse soffocare i pensieri che gli tumultuavano nel cervello. Yanez lo guardò a lungo in silenzio, poi si mise a passeggiare pel ponte crollando a più riprese il capo. Intanto i tre legni cominciavano a veleggiare verso l'oriente, spinti però da un vento leggero che per di più soffiava irregolarmente, facendo talora rallentare di molto la corsa. Invano gli equipaggi, che erano in preda ad una vivissima impazienza, che calcolavano metro per metro la via percorsa, aggiungevano nuove vele, fiocchi, piccole rande e scopomari per raccogliere maggior vento. La corsa diventava sempre più lenta, di mano in mano che le nubi si alzavano sull'orizzonte. Ciò però non doveva durare, infatti verso le 9 di sera il vento cominciò a soffiare con qualche violenza, venendo dalla direzione ove s'alzavano le nubi, segno evidente che qualche tempesta sconvolgeva l'oceano meridionale. Gli equipaggi salutarono con lievi e grida di vigorosi, niente affatto spaventati dall'uragano che li minacciava e che poteva diventare funesto per i loro legni. Il solo portoghese cominciò a diventare inquieto e avrebbe voluto diminuire almeno la superficie delle vele, ma Sandokan non glielo permise, ansioso come era di giungere presto sulle rive di Labuan, che a lui questa volta sembrava immensamente lontana. All'indomani il mare era cattivissimo. lunghe ondate che salivano dal sud percorrevano quel vasto spazio, cozzandosi le une con le altre, con profondi muggiti, facendo vivamente rollare e beccheggiare i tre legni. In cielo poi correvano sbrigliatamente immensi nuvoloni neri come la pece e con le frange tinte di un rosso fuoco. Alla sera il vento raddoppiò di violenza minacciando di spezzare gli alberi se non si diminuiva la superficie delle vele. Qualunque altro navigante tendeva quel mare e quel cielo si sarebbe affrettato a poggiare verso la terra più vicina, ma Sandokan, che sapeva ormai di essere a 70 o 80 miglia dall'Abuan e che piuttosto di perdere una sola ora avrebbe perduto volentieri uno dei suoi legni, non lo pensò nemmeno. Sandokan, disse Yanez, che diventava sempre più inquieto, bada che noi corriamo un grave pericolo. Di che temi, fratello mio? Chiese la tigre. Temo che l'uragano ci mandi tutti a bere nella grande tazza. I nostri legni sono solidi, ma l'uragano mi pare che minacci di diventare tremendo. Non lo temo, Yanez. Andiamo innanzi, che l'Abuan non è lontana. Scorgi gli altri legni. Mi pare di vederne uno verso il sud. L'oscurità è così profonda che non ci si vede al di là di 100 metri. Se ci perdono, sapranno ritrovarci. Ma possono anche perdersi per sempre, Sandokan. Non retrocedo, Yanez. Sta in guardia, fratello. In quel momento un lampo abbagliante squarciò le tenebre illuminando il mare fino agli estremi limiti dell'orizzonte, seguito subito da un tuono spaventevole. Sandokan, che era seduto, si alzò di scatto guardando fieramente le nubi e stendendo la mano verso il sud disse: «Vieni a lottare con me, o uragano, io ti sfido». Attraversò il ponte e si mise alla ribolla del timone mentre i suoi marinai assicuravano i cannoni e le spingarde, armi che non volevano perdere a nessun patto, e tiravano in coperta l'imbarcazione da sbarco e rafforzavano le manovre fisse triplicando i cavi. Le prime raffiche giungevano giù dal sud con quella rapidità che sogliono acquistare i venti nelle tempeste, spingendo innanzi a loro le prime montagne d'acqua. Il prahu, con la velatura ridotta, si mise a filare con la rapidità di una freccia verso l'oriente, tenendo bravamente testa agli elementi scatenati e senza deviare di una sola linea della sua rotta sotto la ferrea mano di Sandokan. Per mezz'ora durò un po' di calma, rotta solo dai muggiti del mare e dallo scrosciare delle scariche elettriche che crescevano ad ogni istante di intensità. Ma verso le 11 l'uragano si scatenò quasi improvvisamente in tutta la sua terribile maestà, mettendo sottosopra cielo e mare. Le nubi, accavallate sin dal giorno innanzi, correvano allora furiosamente attraverso lo spazio, ora sospinte in alto ed ora cacciate così a basso da toccare, coi loro neri lembi le onde, mentre il mare si precipitava con impeto strano verso il nord, quasi che fosse una immensa fiamma. Il prahu, vero guscio di noce che sfidava la natura irritata, affogato dai marosi che lo assalivano d'ogni parte, barcollava disordinatamente ora sulle creste spumeggianti delle onde e ora nel fondo di mobili abissi, rovesciando gli uomini, facendo scricchiolare gli alberi, sbattere i bozzelli e crepitare le vele con tanta forza che pareva fossero sempre lì per scoppiare. Ma Sandokan, malgrado quel furioso rimescolamento d'acqua, non cedeva e guidava il legno verso l'Abuan, sfidando impavido la tempesta. Era bello vedere quell'uomo fermo alla ribolla del timone con gli occhi in fiamme, coi lunghi capelli sciolti al vento, irremovibile fra gli scatenati elementi che ruggivano a lui d'intorno. Era ancora la tigre della Malesia che, non contento di avere sfidato gli uomini, sfidava ora i furori della natura. I suoi uomini non erano da meno di lui, aggrappati alle manovre, miravano impassibili quegli assalti del mare, pronti ad eseguire la più pericolosa manovra, dovesse costare la vita a tutti. E intanto l'uragano cresceva sempre di intensità, quasi volesse spiegare tutta la sua potenza per tenere testa a quell'uomo che lo sfidava. Il mare si alzava in montagne d'acqua che correvano all'assalto con mille urla, mille gurgiti, avvallandosi le une e le altre e scavando abissi profondi che pareva dovessero giungere fino alle sabbie dell'oceano. Il vento urlava su tutti i toni, spingendo innanzi a sé vere colonne d'acqua e rimescolando orribilmente le nubi entro le quali rombava incessantemente il tuono. Il prahu lottava disperatamente, opponendo alle onde che volevano sapevano trascinarlo al nord i robusti fianchi, si sbandava sempre più spaventosamente, si raddrizzava pari a un cavallo imbizzarrito, si tuffava sferzando l'acqua con la prua, gemeva come fosse lì lì per aprirsi in due e in certi momenti rollava così tanto da temere che non si sarebbe più rimesso in equilibrio. Lottare ancora contro quel mare che diventava sempre più impetuoso era follia. Bisognava assolutamente lasciarsi trasportare al nord, come forse avevano fatto gli altri due praos, che da parecchie ore erano scomparsi.